All'alba delle 19:09, sui nostri orologi atomici ricomincia Radio Contatto, una nuova serata di queste dirette speciali Wombat. Ce l'abbiamo fatta. Sì, non potevamo che essere in ritardo, però ci siamo, questo è l'importante, caro il mio reverendo. Abbiamo un po' la botta, reverendo. Almeno io un po' ce l'ho. Anche io, ma me la rivendico tutta. Non, io non mi raccapezzo sui siti delle cose, sull'internet. Allora, non fa niente, non fa niente, siamo qua per iniziare con molta calma. Intanto vi ridiamo il benvenuto, Siete su Radio Contatto, benvenute voi 15 entità che siete all'ascolto in questo momento. Grazie a voi. Grazie, doctor, la tua spinta. Allora, reverendo, oggi di che parliamo? Oggi è la vigilia del 25 aprile. Quel giorno lì, Quel sì. giorno lì, e quindi parleremo un po' di questo anche. Parleremo di partigiani di ieri, partigiane di oggi, resistenze varie. Esatto. Abbiamo diversi contributi dai vari amici che ci seguono ormai. Cercheremo di farvi un po' di compagnia per le prossime 2 orette e farvi venire un po' di voglia, un po' farvi frizzare gli animi in vista di domani. E vi ricordo i contatti che preziosissimi per noi, insomma, se ci volete scrivere, assolutamente mandate una mail a frittole@gattini.ninja. Gattini.ninja. Oppure andate sul fantastico sito di Wombat, wombatnoblogs.org. E trovate il link per il pad della diretta per scriverci le vostre impressioni live e vi risponderemo insultandovi. Ma non solo. Troppo facile l'insulto. Assolutamente. E niente, sì, iniziamo con molta calma oggi, quindi Sì. stappate le birrette, aprite i vinellini. Varie droghe, non lo so, rilassatevi. E volevamo dedicare un po' questa puntata, queste nostre chiacchiere, queste musiche che manderemo, come abbiamo detto, alle partigiane e partigiani di ieri e di oggi. Vorremmo dedicarla a Orso, vorremmo dedicarla a Eddie, alla quale veramente mandiamo un grosso abbraccio, complici e solidali. Vorremmo ricordare anche Giuseppina Rettori, che è una persona che è venuta a mancare poco tempo fa e della quale parleremo anche più tardi in un collegamento. Thank you. e mandiamo subito un brano, il primo brano a richiesta, perché se ci scrivete potete anche richiedere dei brani da mandare, avete questo privilegio. E dai, Scade la Terra, richiesto da Martina, che è una nostra carissima ascoltatrice. De amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Fiebre necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cruces del dolor. Y es que no hay respeto. Salutiamo Marti, grazie. Ti salutiamo, grazie per il contributo musicale. Fallo tutte le settimane, verrai soddisfatta. Vi invitiamo tutte e tutte. Questa è Radio Contatto, insomma, le vostre dediche, Radio le vostre emozioni in diretta. Vogliamo trasmetterle noi, farci carico. E dicevamo, un sacco di contenuti oggi. A quanto pare, in teoria. arriveranno sì, pian dai, piano. Ve l'abbiamo detto, siamo parecchio rilassati anche noi, parecchio incasinati anche, però qui in studio ci siamo, sì. C'è Albus che lo vedo già carico, e lì col suo chitarrino onnipresente che vuole sfoderare tutti i canti che può. Il canzoniere è già qua che sfrigola. E poi niente, abbiamo gli appuntamenti consueti con la rassegna della gente che scappa, abbiamo gli appuntamenti ormai anche loro consueti con quelli della leggera, yes. Ebbene sì, la leggera. Abbiamo detto, abbiamo un grande collegamento che faremo verso le 8 da quel covo di matti. Quel covo di matti in cui sono a passare la vita. E oltre a quello ricordiamo cantare tutti insieme. E in più c'è sempre la questione del concorsone letterario, che non so se ne avete già sentito parlare da questi microfoni, ma è un'iniziativa alquanto importante, almeno per noi. Lo sapete del concorsone? Che non lo sapete? Sapevatelo? E ve lo ricordiamo noi. Con questo spottino che non facessimo sul serio, faccio lo rimando vai. Tu pensavi che ci stessimo riscaldando, che non facessimo sul serio, vero? Sì. È incredibile. Non può essere vero. Quel moccioso pensava che non facessero sul serio. Sì, povero illuso. Sei così ottimista che tutti ti infamano? O credi che al peggio non ci sia mai fine? Ti lasci dolcemente cullare nel presente? O il futuro è già impresso chiaramente nella tua coscienza? Sei in contatto con ogni universo parallelo? O il tuo cervello è l'unico mondo possibile? Se proprio questa realtà ti doveva toccare, corri subito a prendere carta e penna! Impasta le tue meningi, lucida la sfera di cristallo, ascolta la sinfonia dell'infinito! Aggrega qualunque altrimenti in un unico adesso e spiegaci che p***o potrebbe succedere ancora! Dai ascolto alle tue più deliranti premonizioni, alle tue più razionali previsioni o dici semplicemente quale scenario ti aspetta per il futuro. A questo punto scrivi il tutto in una lingua comprensibile e invialo a distopie@esiliati.org. Ogni venerdì dalle 19 alle 21 leggeremo i testi e assegneremo ricchissimi premi! I premi verranno assegnati in maniera completamente casuale e contro qualunque competizione. Se non l'avete ancora capito, vogliamo leggere in radio cose deliranti scritte da voi. Adesso vai, figliolo. Devi riportare la pace sul nostro pianeta. Ebbene sì. Aprile 2062. Oggi compio i miei fottutissimi 80 anni. Che palle. Un tempo gli 80 erano un obiettivo di tutto rispetto. Tutti i miei nonni sono morti sotto i 90. Oggi invece rappresentano solo l'ennesima tappa verso i 100. Vissuti come? Di merda. Già, perché a quelli non gliene è mai importato un cazzo di come vivessero i loro sudditi. Solo di quanto, e pure a me, vivere di più vuol dire essere migliori. Mio padre me lo ripeteva sempre. E così suo padre, prima di lui, e giù indietro fino alla notte dei tempi. Non poteva che essere vero. Nemmeno dopo la prima pandemia del 2020 si cominciò a pensare in termini qualitativi, o meglio, chi cominciò a farlo fu costretto a ritirarsi dalla vita statale. Volete vivere meglio? Vivete tra voi, basta che non pesate sullo Stato. Questo fu il messaggio più in voga negli anni a seguire. Lo Stato, avendo dimostrato la sua inadeguatezza, era corso ai ripari, divulgando una narrazione utilitaristica, paternalistica e rassicurante per chi, come me, voleva solo... voleva solo tornare alla vita di prima, quando ancora non immaginavamo la deriva verso cui stavamo andando tutti quanti. La narrazione era la seguente: c'era troppa gente che lavora in nero, troppa evasione, troppe poche tasse. Se volete essere assistiti adeguatamente nei nostri ospedali, se volete una banda sufficientemente larga per connettervi in ogni momento gratuitamente, se volete vivere nella sicurezza che nessuno al supermercato, in stazione, al bar, sia portatore di un male, affidatemi a me, come fareste con vostro padre. Vi darò tutto, ma in cambio dovrete lavorare, tanto, pagare, tanto, vaccinarvi, tanto, registratevi alle liste civiche digitali, tanto, farvi monitorare una volta al mese la salute, tanto, e rendere trasparenti i vostri spostamenti, tantissimo. Dovrete, insomma, vivere come diciamo noi. In cambio, tutto tornerà alla normalità. L'avessi saputo prima, che erano delle gran fandonie, che quella normalità in verità aveva le virgolette. Avrei fatto come le mie figlie, quelle che tra vivere ed esistere scelsero la seconda via. Ma non me ne resi conto subito e forse ormai è troppo tardi. Mi resi conto che lo Stato, pur di non scomparire, aveva deciso di accanirsi solo su una parte della popolazione, ripeto, la più spaventata, la meno consapevole. Chi avesse voluto coltivare per sé o per la propria tribù, così cominciamo a chiamarle, o avesse voluto medicarsi con le piante o prendere decisioni autarchicamente, autonomamente, egoisticamente, ripeteva irato alle mie figlie, non avrebbe avuto un accesso a un ospedale, almeno non a quelli pubblici, in caso di bisogno. Un out-out che fu prima accollo della democratica Europa e poi, nel giro di un paio di decenni, da tutto il mondo. E chi non ci stava? Facile, finiva in mano alle organizzazioni criminali, alle mafie. Ma non si chiamavano così, si chiamavano SSA, strutture statali alternative. Soprattutto al sud, dove la gente si ribellò maggiormente, quel covo di briganti, in milioni decisero di cavarsela da sé, ma finirono dalla padella alla brace. Passarono dall'essere sudditi di un'organizzazione statale all'essere schiavi di un'organizzazione mafiosa. Fui felice della mia scelta per molti anni. Alla fine bastava seguire le indicazioni dei decreti per stare tranquilli. Ho pure sempre lavorato duramente per 78 anni. Ho dimostrato allo Stato di seguire tutte le norme, di essere un buon, anzi ottimo cittadino. Mai avuti furori giovanili di discordia, per fortuna. Ho seguito le regole e tutto è tornato come prima. Quasi. D'altronde, erano già passati 20 anni... Nel nuovo millennio e ancora si voleva vivere come se fossimo nel vecchio. Il nuovo millennio, il terzo, quello tecno-digitale, quello delle guerre naturali globali, quello in cui finalmente si smise di lottare tra noi per cominciare a lottare contro i virus, le siccità, il clima, perdendo ogni volta centinaia di milioni di persone, ma sopravvivendo. Così nel 2028, con la prima grande siccità globale, e poi nel 2037 con la seconda pandemia e pochi anni fa con la grande unione del millennio, quella in cui il primo governo centrale del pianeta sferra l'attacco finale contro i poveri, dichiarando illegali, clandestini e nemici tutte quelle regioni, territori o interi paesi che hanno scelto le comunadi, comunità naturali diffuse, come unica sicurezza per continuare ad esistere. Thank you. Fino all'anno scorso lavoravo come disinfestatore pubblico, ovvero passavo a disinfettare ogni superficie dei ristoranti non appena qualcuno si alzava e se ne andava. Un lavoro tranquillo, pulito, sicuro. Tutto sommato avevo scelto di rispettare quel diktat perché volevo sopravvivere. Le mie figlie un po' meno. Già a 10 anni, nel 2031, ci riempivano di domande a me e alla loro madre, Dora. Lei ascoltava e a volte le abbracciava. Io invece mi incazzavo come una biscia, soprattutto quando mi chiedevano come mai dovessimo usare lo smartphone per qualunque cosa, come andare al parco, in pizzeria, a fare una passeggiata. Una volta me lo nascosero e io quasi gli buttai giocattoli dal quinto piano del nostro appartamento milanese. D'altronde, se non eravamo in regola con il lavoro, con le tasse e con la salute, non potevamo nemmeno prenotare in un ristorante o in un parco cittadino. Ma come potevano capirlo a 10 anni? Stavano 4 ore la mattina in classe per le lezioni di disciplina e 4 ore il pomeriggio davanti al computer in casa per le lezioni di nozionistica. Che ne sapevano loro? Da metà degli anni 30, però, non c'era più nemmeno il tempo di litigare. Ogni anno c'era qualcosa, qualche emergenza, principalmente planetaria, climatica, epidemiologica, e ognuna innescava un'altra emergenza a catena. Per fortuna ci sono sempre i ricchi e i ristoranti da pulire, per cui non ho mai perso il lavoro. Ma mia moglie, maestra, non riusciva più a educare nessuno, con queste rapide alternanze sempre più frequenti di chiusura delle scuole. Alla fine degli anni 30 passava sempre più il tempo con le mie figlie, forse le faceva bene, ma non capivo cosa facessero. Tornavo a casa e le trovavo a fantasticare sui luoghi che le due piccole, ormai diciottenni, frequentavano sempre più spesso. Non ho mai capito cosa facessero, ma quando cominciarono a parlare di altri mondi possibili, capì. Dagli anni 40, infatti, cominciarono a girare voci e ad apparire immagini nelle TV di Stato di luoghi dove le persone vivevano come nella metà del XX secolo. Tutti insieme, in vecchie case abbandonate, coltivando, suonando, bevendo, infischiandosene del mondo, ma soprattutto senza profili digitali. L'opinione pubblica indicava quelle come delle piccole realtà sparse e isolate che nemmeno la malavita voleva soggiogare, perché troppo poche, inoperose ed inutili. Insomma, uno strascico di quelli che mio padre definiva figli dei fiori. Pareva che si sarebbero estinti, come era plausibile, senza accesso agli ospedali, senza vaccini, senza possibilità di comprare cibo nei discount, senza possibilità di voto, senza treni né aerei, senza TV, senza screening, senza monitoraggi, senza nulla di moderno, insomma. Dora, Lux, Sara, perdonatemi. Vi ho lasciate andar via, o forse vi ho cacciate? Lo capite o no che avevo solo paura? Paura che vi estingueste? Che il vostro sogno irrealizzabile fosse solo una tentazione del demonio? Non vi ricordate quelle teleconferenze sulla responsabilità sociale? Quando tra le mie braccia mi sorridevate gridando: da grandi vogliamo essere d'aiuto allo Stato e al bene comune. Cos'è il bene comune se non ciò che lo Stato può assicurarvi? Lo capite perché non potevo accettare che mi considerassi uno schiavo del sistema, un buono a nulla, un addormentato, un cieco, un illuso? Ero e sono pur sempre vostro padre. Perdonatemi se avessi visto. Ormai è tardi. Quello che doveva cadere sta cadendo. E come l'ultimo dei mozzi di una nave sarò il penultimo a saltare in mare, prima del capitano. Perdonatemi per non aver saputo distinguere il vivere dall'esistere. Mi ripetevate che per il primo basta mangiare e riprodursi, mentre per il secondo ci vuole consapevolezza. Vostra madre lo sapeva bene. Esistere viene da existere. Collocarsi fuori, venir fuori, da cosa? Dal vivere ordinario. E quindi resistere voleva dire uscire dall'ordinario opprimente per difendere lo straordinario esistente. Le credevo delle puttanate, dei giochi di parole. Oggi compio i miei fottutissimi 80 anni, fuori è tutto umido, vecchio. La città è ormai quasi disabitata. Mi mancherebbero 5 anni alla pensione, ma ho scelto di licenziarmi prima. La mia unica patetica forma di protesta. Peccato che resterà inascoltata. Che ironia. Per questo mi vergogno profondamente, per il mio passato, ma soprattutto per l'oggetto di questa missiva, cioè per chiedervi se mi venite a salvare. Sempre che riceviate questa email e che non siate ancora arrabbiate con me. Quanti anni è che non ci sentiamo? L'ultima volta Dora non poteva parlare perché stava finendo di impagliare un cestino, vero? La denigrai, che cretino. Come sta? O forse non leggete nemmeno più le mail? In quel caso verrò io. Ha ancora 16 anni da vivere, secondo l'app. Vi troverò. Questo è un bellissimo racconto che ci ha inviato Camicia, che ringraziamo tantissimo e aspettiamo altri scritti da tutti voi. Che dici, Rosa? Ha vinto un premio, Camicia? sì, ha vinto un premio anche Camicia. Fino ad ora tutti i partecipanti hanno vinto un premio. Poi con questa scusa che non possiamo consegnarli, li accumuliamo e speriamo di vederci presto, no? Voi sapete, sappiate che prima o poi avrete un premio contatto. Sì, quando riaprirà il mercato contadino. È facile vincere il premio contatto. Basta che ci mandiate qualcosa che volete condividere, noi lo leggeremo, lo condivideremo, in questo modo creeremo il contatto. Allora, mentre il reverendo fa una ricerca per mandare una canzone che ci è stata richiesta, io vi voglio ricordare che potete scriverci in diretta sul pad di Radio Wombat. Digitate pad.cisti.org/direttawombat e si chiacchiera, si crea il contatto in diretta. E poi niente, dai, diteci un po' cosa farete domani, che è il 25 aprile, come il vostro modo, insomma, di ricordare, il vostro modo di portare oggi la resistenza. qualche giorno che da più parti arrivano dei contributi online, insomma, si susseguono un po' le voci di gente che vuole fare qualcosa per il 25 aprile. Ci siamo un po' vergognate la settimana scorsa e non ne abbiamo parlato. Ci sembrava un po' precoce. Però ora che Wuming ha fatto un articolo, insomma, si è un po' sdoganata la... E diciamolo. La passeggiata antifascista. No, non è proprio così, non è come tutti gli anni che ci ritroviamo a migliaia in piazza per il 25 aprile, purtroppo non sarà così, ma a Firenze antifascista per domani ha organizzato una grande giornata sul web con un sacco di contributi in streaming che potete andare a seguire sui canali social. Mi fa strano dirlo, però è così, con musica, interventi, contributi e poi in carne e ossa ci sarà una delegazione che, rispettando tutte le norme di sicurezza sanitaria, renderà omaggio al monumento a Potente in Piazza Santo Spirito e al monumento ai Cinque Martiri in Piazza Tasso. Dai, una bella notizia. Finalmente. E poi, appunto, come dicevo, una diretta streaming sui social con interventi, contributi politici e artistici per permettere a tutte e tutti di partecipare a questa giornata anche da casa. Insomma, si fa il possibile. Sì, a proposito di streaming, ho trovato sul sito storieinmovimento.org una bella lista di film sulla resistenza sul 25 aprile, c'è una guida su storieinmovimento.org. Se state a casa e non avete voglia di beccarvi la diretta Facebook, almeno guardatevi un filmetto. Sì, insomma, l'articolo di Giap sul 25 aprile è un po' troppo lungo per essere letto, non si può, a mio avviso, non si può neanche sintetizzare troppo. Allora, vabbè, andatevelo a leggere. No, non so che dire. mi sembra che il riassunto sia che ci siamo... Che tanta gente si è rotta il cazzo e ci sta provando a immaginare modi alternativi per fare cose per strada. E infatti la notizia di pochi giorni fa è che Wuming ha fatto delle letture, ha fatto dei reading, scusate la N nasale, ha fatto dei reading in coda, si sono messi in coda nelle varie librerie bolognesi e hanno fatto 2 orette di reading e non hanno destato alcun sospetto perché sembravano persone normali, però hanno portato cultura e hanno fatto qualcosa, perlomeno io sono molto, gli sono molto grato. E poi notizia di ieri è che a Torino c'è stato un corteo e io farei partire la ola perché... No, vabbè, compagni e compagni anche virtuale, sì, no, grandi davvero. E, insomma, c'è stato un fatto spiacevole domenica, avvenuto in corso Giulio Cesare, e a seguito dei quali quattro compagni sono stati arrestati e ieri un gruppo di abitanti del quartiere è voluto scendere in strada, sempre a distanza di sicurezza, provando a mantenere distanze e dispositivi per raccontare bene al quartiere che cosa era successo. sono stati raggiunti dagli sbirri. Ma è stata una situazione un po' particolare. A mio avviso molto interessante. Vi invito ad andare sul sito di Radio Blackout, che se n'è occupata. Hanno seguito tutta la diretta e hanno fatto anche delle analisi a freddo. Ci sono varie considerazioni, un articolo di Microfoni Aperti sui nuovi modi di stare in strada, in piazza, anche perché sembra chiaro sempre di più che l'unica cosa che davvero non se ne andrà mai via è il divieto di assembramento, almeno non sappiamo quando se ne andrà, per cui oltre a tirare sonori bestemmioni possiamo ben immaginare altro. Quindi quando ve le immaginate inviatecelo, mi raccomando. E nel frattempo sono riuscito a scaricare il pezzo che ci hanno chiesto. Quindi lo dedichiamo a Giulia, che ci ascolta da Piacenza. Grazie Giulia, un salutone, un abbraccio. No, l'ho perso, maledetto. Adesso arriva Giulia. Andiamo. Anche da quando c'è Albus qui, veramente gli ascolti sono triplicati. Mamma mia, sono tutti suoi. Oh, impennata. Grande. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me decías. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Dammi un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Questi giorni di emergenza saranno tornati comodi alle autorità per evitare contestazioni, ma al contempo possono mostrare a tutte e a tutti sulla propria pelle cosa significhi sorveglianza. Cosa significa non potersi muovere dalla residenza, non poter incontrare persone, dover continuamente rendere conto alle forze dell'ordine, essere costretti a rientrare a un'ora imposta. Per chi combatte le giuste cause, lo stai a casa è una condanna sempre sospesa sulla testa. Qual è allora l'epidemia che propaga Eddie? La lotta per la libertà delle donne e di tutti i popoli, l'autodifesa dai terroristi e dai tiranni, ma anche le battaglie per l'ambiente, contro le grandi opere e per una vita degna. Ebbene, se lo Stato voleva scegliere il suo paziente zero, è stato molto preciso, ma anche molto esplicito. Ha messo nero su bianco cosa difendere e di chi ha paura. Ora sta alla responsabilità di tutti cambiare le cose. La resistenza è vita, è di libera. Questo è un paragrafo del comunicato uscito sul blog di Resistenza, resistenzafirenze.noblogs.org, che appunto è intitolato Contro la sorveglianza speciale per Eddie. Quindi Eddie libera. Partigiana di oggi. Tanto scusate, abbiamo un po' di problemi col pad. Cioè, noi ci lamentiamo che non ci scrivete, in realtà ci scrivete un casino. In realtà e siamo noi scemi. Che siamo scemi. Eravamo su cisti.org invece che su RiseUp. Dio mio. Eccoci, madonna, ragazzi. Cioè, questi tecnici. Che botta. Altro che contatto, Radio Fusoni. Questo l'abbiamo sempre detto, questo è Radio Conato, che vi fa andare di traverso l'aperitivo. O Radio Combotta. Vi leggiamo da Falti Home, aspettiamo la diretta. Vabbè, siamo arrivate e ci mancano le birrette. Erano lì ancora prima. Erano ancora. Mamma mia. Scusate tutti. Sarà la quarantena la nuova resistenza. Non lo so, cioè gare di resistenza nel senso resistenza estrema a chi regge di più. Va bene, siamo sul pad, ce l'abbiamo fatta. Io volevo dirvi, se non lo sapevate, che Radio Spore, la fighissima radio autogestita di Bologna, di un po' nata all'XM, adesso un po' clandestina, un po' nomade, fa un bel evento domani 25 aprile. Praticamente dalle 10 fino alle 22 fanno una direttona speciale. Quindi radiospore.oziosi.org hanno fatto uno scatolone in cui si possono mandare vari contributi audio. Ci sono collegamenti dai quartieri, perché insomma tutti si immaginano che qualcosa succederà, musica, letture. Festeggiamo la liberazione tenendo a mente che la resistenza non è mai finita, ci mancherebbe. E un'altra chiamata che fanno è invece quella di collegarsi e diffondere musica con impianti stereo casalinghi dai propri balconi alle 13:12 puntuali, quindi all'1:12, in contemporanea all'esposizione di bandiere e striscioni, per far risuonare in ogni strada una playlist di musica partigiana fino alle 13:30. Boom boom boom. Insomma, alle 1:03, 1:02, se non avete niente da fare, no, anche se avete qualcosa da fare, fermatevi e fate quello che ha appena detto il reverendo. Sì, insomma, fate casino, diffondete musica partigiana dai balconi, ma vabbè, diciamo, Radio Spore, insomma, ci dice così. E quindi ricordaci l'indirizzo giusto del pad. Farcela, eh? Dovrebbe essere pad.riseup.net/p/diretta wombat, giusto? E siamo in quattro qui a provare questo cazzo di indirizzo. Insomma, non fate come noi. Andate sul sito di Wombat e lo trovate molto più facilmente. Oh, sì. Diretta Wombat-Keep. Nel senso che poi resta per sempre, resta per un anno. Qualcuno ci scrive: domani vado a fare una passeggiata. Non farci sapere dove vai, ma speriamo di beccarci. Allora, eccoci qua. Rientriamo in diretta e entriamo nel vivo della puntatona di oggi. E siamo al telefono con le nostre amiche, i nostri amici imboscati della Leggera, la costola ribelle della Leggera. Siete voi? Ci sentite? Siete voi, ci sentite? Era una finta, Doctor. Ragazzi, vabbè, ho fatto il coglione. Siamo realmente imboscati. Ah, eccoli! Erano solo molto bassi. Scusate. Ci sentite? Sì, ora sì. Grandissimi. Okay. Insomma, come buonasera, va? Buonasera, benvenuti. Grazie. Pronto? Talmente imboscati che va e viene. Pronti? No. Non ci sono. Piripipipi. Pronto? Ci sentite? Sì, cioè ora sì, ma 10 secondi no. Per 10 secondi no. Pronto? Sì, allora noi ci sente. Okay. Noi ci sentiamo bene. Vai, va bene. Ora sembra che ci si possa fare. Vabbè, semmai ci spostiamo. Perché qua non spostatevi che rischiate, se no rischiate il multone. Allora, come va? No, raga. Spostatevi. Ma lo fate apposta. Quando vi chiedo qualcosa state zitti. Pronto? Aspetta, ci spostiamo in un luogo migliore. Potete rispondermi, non sono uno sbirro io. Vabbè, radio improvvisazione stasera. Nessun problema. Ok, ci sentite ora? Sì. Allora, insomma, come va? Come state? Meglio. Sì, dai. Raccontateci qualcosa. Così vediamo se vi sentiamo. No, è che realmente siamo imboscati, nel senso che viviamo in un podere tra le colline vicino a Rufina e il telefono in dei punti prende e in altri no. È comprensibile. Adesso siamo sull'aia, quindi adesso sembra che va. No, non dovete scusarvi, vi comprendiamo benissimo. Quindi anche voi hashtag resto in casa e hashtag resto in campo. Resto in campo, direi. Sì, soprattutto in campo. Niente, noi abbiamo preparato una serie di ascolti bizzarri su questo 25 aprile così assurdo. E niente, ve li proponiamo. Perfetto. Quindi voi, insomma, lo ricordiamo, ma tanto io penso che, insomma, le nostre ascoltatrici ormai vi conoscano molto bene. E comunque, insomma, siete delle entità che fanno parte di questo grande progetto che è l'Associazione Culturale La Leggera, giusto? Che si occupa proprio di andare a recuperare, a scavare quella che è la cultura, la tradizione orale, canora e musicale, no? della zona, della Val di Sieve, del Mugello e del Casentino. Giusto? Oggi sono okay. Per la maggior parte presi da... No, non ce la possiamo fare. Andate a scatti ancora. Senti, Doctor, io mando il primo, dai. Mandalo. Allora, il primo brano che ci hanno inviato loro. Poi proveremo a contattarci meglio. Thank you. quei briganti neri m'hanno arrestato e in un'oscura cella m'han gettato. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte. E quando mi portarono alla tortura, legandomi le mani alla catena, stringete pure forte le mani alla catena, più basso di parlare muoio in galera. Stringete pure forte le mani alla catena, ucciderete l'uomo ma non l'idea. Quando mi portarono in tribunale, chiedendomi conosci sto pugnale, sì sì che lo conosco, ha il manico rotondo, nel cuore dei fascisti lo piantai a fondo. Sì sì che lo conosco, ha il manico rotondo, nel cuore dei fascisti lo piantai a fondo. Fu preparata, fucili e mitraglie amputati, non si sentiva i colpi di mitraglia, ma si sentiva un grido, viva l'Italia. Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido, rivoluzione. Ed erano i suonatori Terra Terra ed Estorio Drolo, quei briganti neri, una registrazione del 2003. Ci sentite? Esatto. Eccolo, eccolo. Sì, sì. Ciao, esatto, perché allora intanto mi piaceva raccontarvi che gli stessi che hanno fondato La Leggera sono anche fondatori dei suonatori Terra Terra. Ah. E quindi La Leggera è nata da quell'esperienza lì, e mi sembrava una cosa bella anche da raccontare. Certo, fatto e bene. E poi questa registrazione qui la facemmo a Cuneo, insieme agli amici di quelle zone lì, che è un'altra terra di grande storia di resistenza, ed è... Non lo so se lo sapete, ma E quei briganti neri in realtà nasce come un canto anarchico che in origine raccontava la storia di Sante Caserio, che uccise il presidente della Repubblica francese Sadi Carnot, mm-hmm. e poi fu ghigliottinato nella piazza di Lione di fronte alla folla. Ci sono diverse versioni sulla storia di Caserio. Ci sono vari canti questa, anche molto belli, no? Sì, bellissimi. E tra cui questa che poi praticamente fu ripresa durante la Resistenza e riadattata per raccontare invece la Resistenza, la Seconda Guerra Mondiale. Wow, grazie. Qui questo è proprio andare proprio alle radici. Questi pezzi sono proprio roots. E voi insomma ci regalate insomma questi canti, questi brani che vengono proprio direttamente da che erano cantati in prima persona dagli stessi partigiani che si trovavano sulle colline dove adesso vivete anche voi, no? Sì, ora questo qui, questa versione di quei briganti neri, credo ci sia anche lo zampino di Verdi, appunto cuneese che protagonista della Resistenza da quelle parti, cioè penso che in qualche modo lui ci ha messo le mani, se mi ricordo bene, insomma, fu lui a riadattare la vicenda di Sante Caserio. Ma quello che è interessante, perché, e da qui magari andiamo all'altro brano, che è successivo, è che questo, come è successo anche per Bella Ciao, no? Che in qualche modo in origine era cantata dalle mondine, raccontava lo sfruttamento e poi dopo è stata riutilizzata anche qui per la Resistenza, e succedeva per diversi canti questa operazione di riciclaggio, diciamo, e anche canti, diciamo, di cui meno magari ci si aspetta meno, questa, tipo nel brano che ascolterete poi, che lo canta Pasqualina Ronconi, che è un'amica che tuttora vive alle Fieci, un'amica ultra novantenne, che appunto l'ha imparato da ragazza, e questo canto è addirittura è un frammento di una parodia sulla canzone di Lee Marlene, che spopolava durante la Seconda Guerra Mondiale. Credo che da queste parti l'avessero sentita alla radio, dai tedeschi forse addirittura, canticchiare. Insomma, una parodia di Marlene riadattata per andare contro Mussolini, ecco. E infatti il titolo insomma lo rende molto chiaro, questo andare contro Mussolini, quanto si intitola Mussolini infame e traditor. Quindi è abbastanza... È un pezzettino, ma vale la pena ascoltarlo. E allora ascoltiamolo subito. E la mora, la pativa fame, insomma, la pativa fame, il suo marito gli era un mista spaccato. Anche lei gli era. E lei, insomma, non si cantava Lili Marlè come Lili Marlè. E lei, quando arriva che noi dopo non si sapeva più, e lei la diceva queste cose, insomma, questo canto qui. Oh Mussolini, infame traditor, t'hai levato il pane alle povere persone. Anche per te la finirà, quella borsa nera la ti si leverà. Bellissima, ci ha regalato una gioia questa signora. Insomma, un sorriso. No, è bellissimo perché penso che appunto ci sono tanti livelli di resistenza, no? Quindi la resistenza, quella della lotta partigiana, e poi anche la resistenza così diffusa tra chi come le donne, insomma, restava a casa, e però tra donne appunto si scambiavano comunque dei momenti di ribellione, insomma, cantando in questo caso. E quindi stavano lavorando insieme, probabilmente la Pasqualina e la Mora, questa Mora che lei racconta, e canticchiavano tra sé delle cose contro il regime, insomma, per reagire in qualche modo. E certo, con anche ironia, mi sembra, dai. E la successiva Mamma Sì, son partigiano. i prossimi due canti sono eredità di un'altra grande amica e testimone che ci ha lasciati pochi giorni fa. E quindi li trasmettiamo volentieri anche come omaggio a lei che si chiamava Giuseppina Rettori e niente, questi parlano più della resistenza, quella di cui si parla di più, insomma quella sui monti, però sono due chicche dal nostro punto di vista e ci piaceva farvele ascoltare. Il primo è nella versione proprio cantata da Giuseppina Rettori, mentre il secondo l'abbiamo cantato noi in questi giorni nell'orto. Che studio, avete preso uno studio? Questi due sono anche pubblicati in una monografia tutta su Giuseppina Rettori che si chiama Il Canto Quotidiano. Che è piena di è una storia d'Italia cantata, diciamo, è veramente una bellissima raccolta dal mio punto di vista, dai briganti e dai partigiani. Sì, dai briganti e partigiani. E questi due canti sono appunto canti che venivano cantati proprio dai partigiani di Montesovi, che appunto che stavano sui monti durante la resistenza. Beh, allora direi di andare subito all'ascolto di questo Quindi terzo brano. mamma son partigiano e se tu sapessi mamma. Vai, li mandiamo tutti e due e poi parliamo del vostro studio casalingo. Mamma son partigiano. Me ne vo sulla montagna, mamma, per non temere, combatterò con forza vera. Se dovessi morire, il tuo nome, madre mia, non scorderò, ma su non piangere. Ma gli occhi asciugati, un bacio diamoci e ciao mamma. Quando sul campo di battaglia la tromba suona l'avanzata e col fischiare della mitraglia il partigiano pensa alla sua mamma amata. Ma il partigiano ardito e fiero col suo fucile e bombe a mano e sotto gli ordini della Lanciotto sappia combattere, sappia morire e sotto gli ordini della Lanciotto sappia combattere, sappia morire. Noi, mio fratello era sotto la Lanciotto perché questi ragazzi erano sotto la Lanciotto. Se tu sapessi, mamma, quanti compagni che lasciai lassù, lassù sulla montagna, lepre sindiata dalla gioventù. Oh compagna compatta, la piuma la sei tu, di tutta di comano la meglio gioventù. Oh compagna compatta, la più bella sei tu, di tutta di comano la meglio gioventù. E sempre in testa il nostro comandante, eppur me vendo si fa il nostro dover. Canta Cirillo la rumba della morte, di comano la meglio gioventù. Oh compagna compatta, la più bella sei tu, di tutta la Toscana, la meglio gioventù. Oh compagna compatta, la più bella sei tu, di tutta la Toscana, la meglio gioventù. Oh, bellissimo, un po' d'aria fresca, davvero. Decisamente. Decisamente. Registrazione, l'ultima soprattutto, una registrazione abbastanza improvvisata. È bello così, a noi ci piace così, anche un po' di improvvisazione, dai. No. È interessante perché c'è sempre il riferimento alla mamma, perché questi erano giovanissimi, no? Quindi 19-20 anni. E quindi spesso sì, esatto. Il riferimento alla mamma si deve a questo, insomma. E poi ovviamente la Lanciotto è la brigata Lanciotto Ballerini, che nacque, se mi ricordo bene, poco prima della battaglia di Cetica, dopo che appunto fu assassinato Lanciotto Ballerini, nacque questa brigata a nome suo, di cui facevano parte tantissimi partigiani della zona di comando, appunto, come poi si rammenta anche. Ecco. Beh. Queste sono proprio delle pillole veramente interessanti di storia locale, storia di resistenza e di antifascismo locale. E, sì, appunto, insomma, il reverendo prima vi voleva chiedere un po' del vostro studio NAIR. Ma io volevo prima chiedere il PDF che ci avete mandato del canto quotidiano, è davvero interessante, se c'è modo di trovarlo da qualche parte, ecco, per i nostri ascoltatori. No, non si può. Se c'è modo di trovare il CD, dici. Certo. La pubblicazione. Beh, allora, intanto... Nelle migliori librerie. Che sono chiuse. Purtroppo, insomma, sulla distribuzione siamo un po' carenti. Faremo dei passi avanti, ecco. Però, allora, il PDF in realtà sul sito dell'associazione, quindi www.laleggera.eu, si trova, si può scaricare. Ah, quindi ottimo. Per tutti, anche chi è interessato può andare a vedere. E il CD in realtà si può comprare online presso l'editore che si chiama Nota. Anche lì c'è un sito www.nota.it, oppure presso di noi, insomma, ci scrivete a noi e ho capito, in qualche modo ve lo facciamo avere. No, lo lanciamo, vediamo che arrivi a casa vostra. Sì, mi sembra molto interessante, davvero, grazie per questo contributo. E davvero, una figura storica, sembra veramente coi controcoglioni, Giuseppino. La Giuseppina, sì, non era l'unica, ma lei aveva fatto una vita incredibile, perché da giovanissima la carbonaia, cioè andava dietro al padre a fare le carbonaie, e poi aveva lavorato in Filanda, e insomma, un'esperienza piuttosto ricca, insomma, aveva un repertorio di canti tutto di lotta sociale, di lotta politica, insomma. E ce ne ha insegnati tanti. Oh, bello che è riuscito a trasmetterli. Tanto, sì. È credo molto interessante, perché questo è stato proprio scritto da un partigiano, cioè lo sappiamo. Il partigiano era Corrado Bianchi, con un nome di battaglia magnifico. Il suo nome di battaglia era Tarzan. Grande, wow. Tarzan. Partigiano che originario di Varlungo, e che da Varlungo se ne partì per andare alla macchia. Lui avevano spedito in Russia, e poi dopo, insomma, quando è arrivato il momento, decise di darsi alla macchia, e lui ha composto un sacco di canti mentre stava a fare il partigiano. Lo scrive proprio a volte. Questo l'ho scritto da una postazione partigiana sul Mugnone, questo l'ho scritto su Monte Giovi, eccetera. Ah. E questo qui che vi vogliamo far ascoltare adesso sicuramente l'ha scritto dopo, la resistenza già finita, però è un po' retorico ma molto bello. E l'ha scritto sull'aria di Gorizia. Conoscete Gorizia? Sì, sì, sì. Gorizia, sì. Tu sei maledetta. Preciso. L'ho scritto su quell'aria lì, e ha scritto la storia di Bettino Partigiano. L'aria è molto bella, Io credo che sia ancora poco conosciuto. Noi abbiamo avuto la fortuna, io ho intervistato diversi partigiani, tra cui alcuni suoi compagni di Tarzan, che continuavano a trovarsi ogni tanto insieme, anche in anni diciamo vicini a noi, e quando si ritrovavano insieme, per esempio insieme a Bube, un altro partigiano famoso, che era di Pontassieve, cantavano e cantavano anche Bettino Partigiano, per cui questo partigiano che intervistai io, sempre lì nella zona di Vardungo, ora non mi ricordo il nome, lui me la cantò tutta questa storia di Bettino Partigiano. E qui, in questa versione che ci avete inviato, siete voi, giusto? Siete voi che la cantate, sì, c'è anche il video. C'è anche un video. Avete fatto anche un video. Surreale con noi in pigiama praticamente nell'orto. E anche un amico, un nostro amico e coinquilino, chitarrista molto valente, Mattia, e quindi ringraziamo per questo contributo. Perfetto, dai, andiamolo ad ascoltare, dai, grazie. Ci sta, dai, se no una sola. Dalle rive dell'Arno mattino, salutato dalla sua ragazza, se ne andava alla macchia del pino, con la fede di fai partita. Se ne andava la macchia Bettino, con la fede di fai partita. Lei diceva Bettin non partire, con il volto sconvolto dal pianto, là sui monti potresti morire, senza te pure io morirò. Là sui monti potresti morire, senza te pure io morirò. Piangi mio caro amore, disse Beppe asciugandole gli occhi, a 20 anni vedrai non si muore, aspetta amore che ritornerò. A 20 anni vedrai non si muore, aspetta amore che ritornerò. Dal vero al prato magno, da Monte Giovi a Monte Morello, per Bettino divenne suo regno, su ogni monte il suo nome segnò. Per Bettino divenne il suo regno, su ogni monte il suo nome segnò. Mesi di combattimenti, tra la pioggia, la neve e gli stenti, superati rastrellamenti, con potente a Firenze arrivò. Superati rastrellamenti, con potente a Firenze arrivò. E nel mezzo di quella battaglia, mentre tutta Firenze insorgeva, fu colpito da una mitraglia, all'ospedale molto grave finì. Fu colpito da una mitraglia, all'ospedale molto grave finì. Giusti tra tanti feriti, la ragazza cercava il suo nome, fra quei tanti lamenti infiniti, singhiozzando chiamava Beppi. Fra quei tanti lamenti infiniti, singhiozzando chiamava Beppi. ad un tratto una fievole voce la chiamò tra le bende macchiate, al capezzale le corse veloce e il suo amore morente trovò. Al capezzale le corse veloce e il suo amore morente trovò. Professore, lo salvi, la prego, il mio sangue può dargli la vita. Professore, intervenga, la prego, e il professore Peppino però. Professore, intervenga, la prego, e il professore Peppino però. Fu quel sangue d'amore donato che lei dette con tanta speranza, che Peppino così fu salvato e al suo amore la vita legò. Che Peppino così fu salvato e al suo amore la vita legò. E sull'Arno con bimbo per mano ritornarono un giorno felici. Era il figlio del partigiano, nato insieme alla libertà. Era il figlio del partigiano, nato insieme alla libertà. Veramente bella, questo canto. Poi finisce bene, no? Cioè, finisce bene. Bene, non è da poco. Esatto. Non è da poco. Bene, è una rarità. Dici la verità, dottor Io, il reverendo la stava canticchiando mentre... Il reverendo ci provava a improvvisarla, però ha visto, gli vengono solo improvvisazioni sulle canzoni degli anni 80. È vero. E quindi magari così prende un po' di altre arie su cui improvvisare. Noi qui siamo all'aperto per poter fare la telefonata. Ogni tanto sentiamo qualche rumore vicino, tipo cinghiale o... Non ci sentite più? Niente. Ci hanno spazzato via. Vabbè, ma noi parliamo anche con i cinghiali. Ce li troviamo anzi abbastanza affini. Allora, se vogliamo introdurre il prossimo pezzo, che sono le sirenelle di Carnevale, volevamo fare due parole sulla fanfara della Leggera, che è un'altra formazione che esiste da un po' di anni ormai, è una formazione bandistica, cioè sono tutti fiati, strumenti a fiato, il cui repertorio è sempre preso appunto dal repertorio a ballo della zona, però anche si dedica insomma al canto sociale. E la fanfara, vabbè, adesso purtroppo l'attività è sospesa come tutto il resto, però trova ogni due giovedì al Circolo di Scopeti e tutti sono invitati, quando saremo di nuovo in libertà, a partecipare, quindi chiunque abbia voglia di cantare o suonare uno strumento a fiato è benvenuto. Perfetto, grazie di questo invito. Per esempio voi, insomma, non so se c'è da fare ogni due giovedì. No, noi non possiamo, mi dispiace, siamo impegnati. No, sto scherzando, dai. No, è che ogni volta vi dico, sì, dai, cazzo, carichissimi, veniamo assolutamente. Vabbè, adesso cioè, puoi fare bella figura con poco dicendo, sì, vengo, tanto non si può. Puoi mentire. No, però a parte nessuno lo saprà. Sì, comunque è una formazione aperta, quindi è un invito rivolto a tutti, veramente. Allora, estendiamo l'invito, davvero. E poi ricordiamo anche che... vabbè, voi organizzate un sacco di incontri, di cose, appunto seminari, e anche la mitica veglia che si svolgeva tutti i mesi alla Casa del Popolo di Molin del Piano. No, sì, ho detto bei giusto. Bei tempi. Comunque si fa le veglie in mascherina. Il veglione, no? Il veglione mascherato. Esatto. E a proposito di maschere, appunto il brano che ascolta, insomma, che ascolteremo fra poco, è proprio stato scritto, insomma, è stato composto per un carnevale durante il ventennio, quindi appunto è un altro canto di resistenza al fascismo. E il carnevale appunto è un momento in cui c'è più libertà di esprimersi, esprimere anche il proprio dissenso, e queste sono delle strofette appunto di resistenza al fascismo, e che sono state cantate appunto durante un carnevale nel territorio di Pelago. E è carino perché, cioè carino, insomma, è interessante anche perché nomina, tra i vari malanni insomma, e disastri che nomina, c'è anche la febbre spagnola, e insomma, quindi un'epidemia, e quindi adesso insomma sono particolarmente appropriate in questo momento pandemico. E sono comunque delle strofe, delle strianelle, anzi si dice, di denuncia, perché per denunciare, diciamo, la condizione di precarietà nella quale ci troveremo presto tutti quanti, credo, dopo questa, esatto, esperienza, e quindi la sofferenza proprio della precarietà economica nel quale vivevano anche in quegli anni lì. Insomma, ci sono delle tristi analogie, quindi andiamola subito a sentire, sono curioso, e dai, poi si continuerà a commentarla. Andiamo. Insieme, vai. Eccoci qua, eccoci tornati. Ci siete ancora? Sì, certo. Vai. No, vi volevo pronti all'ascolto per ringraziarvi, perché grazie a voi, a questo collegamento, dovete sapere che la nostra radio raggiunge un livello, livello incredibile, superiamo, avanziamo nella graduatoria delle radio per numero di ascoltatori, e noi dobbiamo ringraziare le nostre 20 entità che in questo momento sono connesse con la streaming di Radio Wombat e stanno ascoltando Radio Contatto, e io li sento tutti addosso e vi voglio abbracciare e ringraziare. 20 entità, siete bellissime, grazie! Grazie! Non eravamo mai arrivati a 20 ascoltatori e ascoltatrici in diretta, quindi siamo molto lieti di questo fatto. Va bene, torniamo a noi. Allora, scusate, abbiamo fatto scappare gli altri 20. Allora, va bene, va bene, va bene. Ci chiedevamo se siamo nei tempi, perché sai, noi possiamo andare avanti qualche ora. Allora, siamo nei tempi, sì, insomma ci avviamo, in realtà purtroppo ci avviamo un po' a concludere, insomma, questo collegamento. Sì, effettivamente siamo un po' stretti, però potremmo farne altri di collegamenti, quindi se, chissà, dai, se tanto voi siete lì, noi siamo qui, cioè, che dobbiamo fare? La risposta degli ascoltatori, che visto il successo inaudito, esatto, sempre meglio qui su Radio Wombat. Allora, questo era quindi le stranelle di Carnevale. Le stranelle di Carnevale, molto, molto carino. Spero si sia sentito abbastanza bene, perché insomma il canto corale, così magari in radio si sente un po' peggio. Però insomma è interessante, cioè, considerando appunto quello di cui ci avete parlato prima, un po' le analogie che vengono fuori da questa composizione con il momento attuale, no? Niente, senti, il settimo e ultimo brano che ci avete inviato. Sì, abbiamo scelto, diciamo, come conclusione. È una polca, mm-hmm. Una polca in realtà diffusissima in tutta l'Italia settentrionale, l'Italia appenninica almeno, in varie versioni. Però questa qui è un po' particolare, noi l'abbiamo chiamata Polca Garibaldi, perché chi ce l'ha insegnata si chiamava Emilio Vecci, anche lui. Lui fu un sindacalista dei Mezzadri subito dopo la guerra, fu il primo sindaco di Dicomano, suonava il mandolino, persona eccezionale, e lui conosceva questa polca che era appunto diffusa un po' da tante parti, e ci ha aggiunto un altro pezzo che invece è il ritornello della canzone Brigata Garibaldi, che è una brigata partigiana. Mm-hmm. Cioè che era proprio l'inno, il canto della brigata, sì. Quindi una sorta di inno. Esatto, esatto. E quindi è nata questa nuova polca, Garibaldi, in cui appunto a un certo punto c'è questo ritornello cantato della brigata Garibaldi. Ora, nella versione che vi abbiamo mandato è un po' particolare, perché è insieme a tutti i naccherini, nel senso che fu pubblicata in un CD dedicato ai suonatori di Gnacchere, che sono la versione toscana delle Nacchere. Fantastico. E quindi lì ci sono vari naccherini che si alternano con le Nacchere ad accompagnarci nella polca Garibaldi. Vabbè, sulle Nacchere poi magari facciamo una puntata a parte, perché c'è il maggior esperto mondiale. No. Esatto, mi era giunta voce anche a me che insomma Filippo fosse veramente il super maestro. Un po' estrema la puntata sulle Nacchere. Vabbè, abbiamo detto veramente roots, qui si va proprio a entrare nelle viscere, no? della storia, della cultura popolare, musicale. E niente, ma credo che vi salutiamo così, cioè, veramente. Questo, essendo un pezzo a ballo, questo ultimo brano, ho pensato anche di metterlo come saluto e come auspicio, insomma, di tornare presto a ballare insieme, a fare festa insieme, e quindi ricordiamoci. Siamo d'accordissimo, lo raccogliamo questo augurio, questo parole sante, e lo diffondiamo e invitiamo le nostre entità all'ascolto, che ormai siamo tutti connessi, siete 20 e siete bellissimi. E ballate sta polca, non trattenetevi, mollate il tramezzino, lo spritz, quello che state trangugiando in questo momento, posate la boccia e ballate la polca tutti quante. Grazie davvero, vi voglio tanto bene. Anche noi. E allora si chiude questo collegamento, quindi, con questa polca di Garibaldi, della Brigata Garibaldi, e vi ringraziamo. Ah, non è attaccata? No. Grande. Vabbè. Sì, esatto, faccio saluti troppo... che cazzo, troppo prolissi, grazie Albus. E ballate, ballate. Basta, va a ballare, basta. Dottor, va a ballare. Mi chiedo. Anche le foche bevono Radio Wombat. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglie, temprammo cuori e muscoli in battaglia.

nostra radio contatto preferita. E purtroppo oggi niente rassegna scappa. Purtroppo sì, l'ho fatta, però non mi sembrava rispettoso. Non mi sembrava rispettoso. Si sta affrontando temi troppo seri, anche se quello che ha investito la Guardia di Finanza poteva c'entrare qualcosa. Siamo Menzione menzione d'onore, d'onore a sì. lui. No, beh, farò un condensato alla settimana prossima per la vostra Tutti rassegna insieme. preferita. Invece abbiamo l'ultimissimo contributo da una nostra collaboratrice che ormai conoscerete benissimo dalla voce, che è qua per leggerci qualcosa al volo, Al siamo in volo, chiusura. pronto? Pronto? Al volo, Eccola, allora. eccola. Cosa ci hai Ciao. preparato per questo giorno, per questa vigilia? Allora, per questo giorno importante mi sono ripresa in mano il libro Le lettere dei condannati a morte della Resistenza. Temi allegri. Proprio per finire, per Che finire. Va così bene. detto in 2 minuti fa parte proprio dell'ultimissimo periodo dell'antifascismo durante il ventennio e quindi ci sono anche persone che sono state fucilate e condannate a morte proprio pochi mesi prima, poche settimane prima della liberazione. Ma tra queste ci sono delle donne, e quindi vi leggerò alcune lettere di queste donne che senza di loro non ci sarebbe potuta essere la resistenza. Certo, Siamo ricordiamolo. tutti orecchi. Vai, il mic è tuo. Ok, allora io partirei da Franca Lanzone, che era una staffetta della zona di Savona che fu prelevata e fu fucilata nel fossato del castello assieme ad altri partigiani, proprio con l'accusa di appartenenza a banda partigiana. E lei scrisse questa lettera alla madre, con cui scrisse: «Cara madre, perdonami e coraggio. Il futuro solo farà ciò che la vita umana non sarà in grado di adempiere per me in questo momento. Bacio, la tua Franca». Quindi Vediamo. La signora Franca, casalinga e contadina, che partecipò anche alla Resistenza da Modena e che fu prelevata con tutta la famiglia per aiutare appunto i rifornimenti a casa sua, che mentre stava partendo per Auschwitz, scrive da Carpi di Modena il 16 maggio del 44: «Franca cara, io mi trovo con papà e Carlo, ti scrivo in treno e non posso proseguire perché mi viene un nodo alla gola di pianto, sii forte e attendi con pazienza. Mi raccomando, stai dietro a Mare Umberto, noi presto ci rivedremo. Bacioni a tutti. A tutti e tre, che sempre vi pensa mamma e papà». senti, ma queste lettere che ci stai leggendo, dove, insomma, dove le hai trovate? Da dove le Nel stai libro che vi leggendo? dicevo, che si chiama Lettere dei condannati a morte della Resistenza, che è edito da Einaudi, Ecco. è un libro molto molto bello, e poi è stato fatto un ulteriore libro che si chiama Io sono l'ultimo, che è una nuova riedizione, e poi ci sono anche altri libri che sono le lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, che non ho affrontato. Questo qui invece è un libro che straconsiglio, ormai è un classico, si trova anche in ebook a 6 euro e si chiama Lettere dei condannati a morte della Resistenza. Sono stati fatti anche vari spettacoli di teatro, messe in scena, letture. E procederei. Sì. C'è una bellissima testimonianza da Cuneo di Maria Luisa, era addirittura il 14 novembre del 1944, che scrive, sapendo che comunque saranno le ultime ore della sua vita: «Come già sarete a conoscenza, sono stata prelevata dalle Brigate Nere, mi trovo a Cuneo, nelle scuole. Sto bene, sono tranquilla. Prego solo che non vengano fatte tante chiacchiere sul mio conto e di allontanare da voi certe donne alle quali io debbo la mia carcerazione ingiusta. Solo questa sicurezza mi può far contenta e soprattutto rassegnata alla mia sorte. Anche voi preoccupatevi. Io so essere forte. Vi penso sempre e vi sono vicino. Tanta affettuosità, Maria Luisa». Oltretutto tutte queste lettere sono anche consultabili su www.ultimelettere.it, dove si possono vedere anche gli originali, banca dati in cui si possono cercare le lettere dei condannati a morte a distanza che uniscono sia i partigiani, cioè sia diciamo tutto il mondo partigiano, ma anche insomma altre persone che magari non si sono uniti alla lotta partigiana, ma che hanno sostenuto la resistenza, che hanno avuto comunque poi sono morte, sia dai campi di concentramento oppure appunto anche in Italia. E poi volevo assolutamente segnalare questo libro che sto leggendo, sempre della serie Donne nella Resistenza, che si chiama Diario Partigiano, sempre delle Einaudi nella parte scrittori, che è dell'Ada Gobetti, che insomma era una torinese, aveva sposato Gobetti, che fu ammazzato, morì insomma nella prima parte dell'antifascismo, all'inizio del periodo del ventennio, e poi però lei prende in mano la situazione e diventerà anche appunto comandante dentro le truppe partigiane. E oltretutto dopo la guerra lei avrà un ruolo molto importante nell'innovazione della didattica, ha scritto questo diario alcuni anni dopo la fine della guerra, mi sembra insomma che nasce nei primi anni 50. C'è anche un'introduzione di Italo Calvino, lo consiglio, si chiama Diario Partigiano di Ada Gobetti. Grazie, grazie mille, davvero. Grazie, spero grazie per i contributi. Di stimolo per future letture a tutte. Assolutamente, assolutamente. Livia, grazie, grazie mille di questo contributo finale. E purtroppo vi il tempo. Un abbraccio forte, buon 25 aprile. Grazie, grazie, grazie anche a te. Grazie a te. A voi. Ciao, ciao. Ciao. Insomma, buon 25 aprile a tutti. A tutte e tutti, e la puntata volge al termine. Vorrei solo dire salutare di nuovo le compagne e compagni della Leggera, che in realtà non ci hanno riattaccato in faccia, ma era caduta la linea, a quanto pare proprio nel momento dei saluti, però va bene, va bene. Anche se mi avete attaccato in faccia va bene lo stesso, tanto stavo cazzeggiando. va bene, dai. Grazie per essere state con noi. A tutte e tutti che siete stati all'ascolto, è stato un bel contatto stasera. Ci vediamo domani, direi. Ci vediamo. Speriamo. Ci vediamo domani, dai. Lanciamola così. Noi ci risentiamo mercoledì alle 2:30 per Radio Contatto e venerdì prossimo alle 19 per Radio Contatto. Abbiamo fantasia. No, va bene, dai. Bella. Grazie Radio Wombat, continuate a ascoltare tutti i programmi fighissimi che girano su Wombat e dai, buon 25 aprile. La resistenza è vita. Sono guardare l'interno che ti ordinare riuscire a rendere. Non più vivibile il tuo mondo farla agire. Lentamente la tua carne e di finca dove vivo è l'unica cosa che sanno dare. Il richiamo del tuo io non lo puoi ignorare. Il richiamo del tuo io, unica voce da ascoltare. We'll be right back. non sanno la storia di ieri. Io son solo a passeggio tra i figli, Monte Cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell'aurora. Oltre il ponte, oltre il ponte.